E da tempo che non sento più i miei pianti al mattino sull'autobus, ma non ho tempo manco più per piangere. E infatti adesso mi sveglio e sento che devo studiare a tutti i cadi orari. È così assurdo che sembra di stare agli arresti domiciliari. È da tempo che non esco e non so più lì fuori che tempo c'è. Matematica, latino, greco e non so manco più da dove iniziare. Non vedo manco più i miei genitori. Chissà papà dov'è? Sono più fratto delle disequazioni.